Sull'idea ossessiva del sogno come risolutore del proprio problema, la settimana scorsa, dopo aver raccontato di una mia peripezia, ho avuto lo spiritoso conforto di una nostra ascoltatrice, Valeria, che da appassionata di cinema ha attinto alla propria memoria per raccontarmi una pagina del libro che Truffaut ha dedicato ad Alfred Hitchcock, un regista che, come sa chi l'apprezza, alle varie forme del ricordo, anche alla patologia del ricordo, ha dedicato molto della sua creatività cinematografica. Sembrerebbe dunque che più di una volta Hitchcock si fosse svegliato con la seccante impressione di aver avuto per le mani nel sogno un'ottima trama per un film. Ottima trama che ovviamente si era dimenticato. Decise pertanto di munirsi di penna e taccuino, di porli sul comodino accanto al letto e di affidarsi ad un superio particolarmente servizievole. Consapevole della buona idea, durante il sogno si sarebbe svegliato, avrebbe prontamente annotato il tutto e poi si sarebbe prontamente arreso alle morbide braccia di un paziente morfeo. E un mattino si rese subito conto che la trappola, una trappola tesa al se stesso meno affidabile, era inesorabilmente scattata. Sapeva di aver sognato un'ottima trama per un film e sapeva di essersi svegliato e di averla annotata. Ora non ricordava più niente. Prese allora il taccuino e nella propria calligrafia lesse l'appunto. Un ragazzo ed una ragazza si incontrano e si innamorano. È il caso in cui il dono della sintesi si rivela esiziale per qualsiasi analisi. Per fortuna viviamo ancora un'epoca in cui una storia del genere è ancora tanto comune da non sembrare neppure una storia. Tempo c'è stato e tempo verrà in cui la trama a qualcuno è sembrata e sembrerà originale. Le vicende umane dell'Antico Testamento in avanti traboccano di sogni risolutori. A volte il sogno è la porta attraverso cui accogliere l'altro da sé, come nel caso della vedova a cui la sera dopo la sua morte appare il marito in sogno per dirle i numeri da giocare al lotto, no? A volte, più in linea con il modello ideologico freudiano, c'è un se stesso da scardinare, forziere di chissà quale tesoro. E così al sogno si affida la soluzione del proprio problema, come se dentro di noi ci fosse molto di più di quanto esplicitamente sappiamo o di quanto siamo soliti ammettere, come fossimo magazzinieri disattenti e un po' disordinati. Dalla psicanalisi e dalle neuroscienze sembrano giungere le conferme di questi modelli. La metafora più in voga oggidì per designare la mente è quella del pandemonio, no? Così come magazzinieri saremmo anche particolarmente pasticcioni non solo con le merci in entrata, ma anche con le merci in uscita. Un caso analogo a quello del sogno è quello degli stati di inconsapevolezza artificialmente indotti tramite sostanze chimiche. Nell'Ottocento ha avuto il suo momento di gloria il protossido di azoto, detto anche gas esilarante, ne abbiamo parlato un paio d'anni fa, usato nei teatri per stupire e divertire il bel mondo, ha fatto adepti anche fra gli intellettuali. A quanto riferiscono Desmond e Moore nella loro monumentale biografia, anche il giovane Darwin, studente ad Edimburgo, oltre a rimpinzarsi di ostriche fritte, aringhe stufate, teste di merluzzo infarcite di avena, non sapeva resistere al fascino di inciuccarsi ogni tanto di protossido di azoto. Da un saggio di Jervis, tempo fa, molti anni fa, del 76 sui Quaderni Piacentini, un saggio dedicato all'ideologia della droga, vengo a sapere che con le abituali maggiore pretese, anche il noto psicologo americano William James ha cercato di approfittare della cosa. Pensava evidentemente di espandere le capacità del suo cervello con il protossido di azoto e vi si immerse pronto a registrare i doni meravigliosi che ne avrebbe ricevuto. Ci fu il momento in cui, tornato sobrio, ebbe la certezza di aver elaborato durante la ciucca addirittura la formula che racchiudeva il segreto dell'universo. E grande dovette essere la sua delusione quando lesse nella propria scrittura «Igama, ogama, la donna è monogama, ogama, igamo, l'uomo è poligamo». Ecco che, come pura scemenza, fa giusto il paio con quella di chi cerca formule che racchiudono il segreto dell'universo. Sia che sognino naturalmente, sia che sognino artificialmente, nel distillato degli intellettuali non è difficile riconoscere la modica dose di delirio di potenza di cui non possono fare a meno. Ogni tanto capitano cose gravissime e tremende che nel rallegrare una persona sola, come in un gioco dell'oca ricacciano l'umanità intera indietro di secoli. Il caso della vedova che sogna subito un marito benevolo e preciso come un ragioniere dopo la sua dolorosa dipartita non era semplicemente paradigmatico, ma tratto pari pari dall'aneddotica del mio privato circondario. Il marito le ha detto i numeri, lei se li è ricordati uno per uno, e Ligia e Fedele se li è andati a giocare al botteghino del lotto. Sono usciti tutti, perché non c'è rispetto per chi lotta per emancipare il popolo e per portare la luce nei secoli bui.